Formaldeide Records, Marco qui a Roma, Laura Evil Dead a Milano, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Nadir Persegona, Di Osse, progetto di Doom Noise Industrial insieme a Diego Spinelli. Benvenuto al fedelissimo Antonio Zoviet di Omicidio a Firenze. Buonasera anche a Francesco Cornello, a Bergamo, Fulvio Biondo di Solar Lodge, Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Iniziamo dunque, iniziamo come abbiamo fatto nelle scorse settimane e so che faccio cosa gradita a molti di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Ci andremo ad ascoltare l'ultimo passaggio per quanto riguarda Ghost numero 5, l'album diciamo strumentale ambient di Nine Inch Nails, che ha anche il sottotitolo di Together. Album atipico che si può anche scaricare in free download sul sito stesso dei Nine Inch Nails, accompagnato dal gemello Locust, che ovviamente cominceremo ad ascoltare la prossima settimana. Saluto anche Loredana qui a Roma, il medico della peste, e Alessandra in quel di Fiamignano, confine con l'Abruzzo. Quindi ci ascoltiamo questa lunga traccia da Ghost numero 5, Together. Una traccia che porta il nome di Still Right Here. Thank you. Finiva in questa maniera questo Ghost numero 5, Together, per quanto riguarda Nine Inch Nails. Indubbiamente alti livelli, come ormai ci ha abituato Trent Reznor e soci, in questa circostanza Atticus Ross e Alessandro Cortini. E Together terminava con Still Right Here, una traccia dagli umori abbastanza vari e anche in un tratto elettronico, meno magmatica e densa degli altri. Ricordo ancora una volta in free download sul loro sito direttamente sia Ghost 5 sia Ghost 6, Locust, che cominceremo ad ascoltare la prossima settimana. Ringrazio Antonio Zovet dei numerosi riferimenti e informazioni riguardanti proprio questo lavoro. E intanto vado a salutare chi in questi 10 minuti si è aggiunto, diciamo, alla platea a distanza: Wurnus Eilin, Industrial Noise dal Piemonte, Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta, Like Awake qui a Roma, progetto storico di Ambient, Lucia Cagliazza, ossia Lupsi, in lavoro per ultimare il suo ultimo album, che naturalmente ascolteremo da queste parti, presumo. E risaluto Nicola Locci di Stigmate Hexagonal. Benvenuto a Raffaele Pezzella, un grosso abbraccio a lui, fondatore della Nesplay Sounds Group, della Eight Tower e la Zero K. Lo ringrazio peraltro perché questa sera ho trovato un cameo. Ossia un album di GCNC, un progetto olandese, belga olandese, che naturalmente ascolteremo qui a breve. Un saluto anche ad Enrico Cerrato di Petrolio. Andiamo avanti. Un'uscita altrettanto interessante e anomala soprattutto per questo artista che vado a presentare è Morgan Sumble, progetto singolo di Simone Salvatori, già di Spiritual Front e Last Syndicate. Anomalo perché percorre dei sentieri musicali abbastanza diversi da quelli abituali. C'è dell'ambient anche qui, del retrogusto gotico, del martial e anche un vago sentore etnico. Elementi che rendono questo black scenario numero uno ricco di riferimenti molto interessanti. Questa sera ci ascoltiamo Body Bang Anima e This Silence Speaks Your Language. ottimo ritorno solista per quanto riguarda Simone Salvatori, si chiama Morgue Ensemble, questa sua nuova creatura musicale. Qui è completamente da solo, usa tutto lui, macchine, strumenti, suoni. Ed è venuto fuori questo Black Scenario volume 1, veramente un disco molto molto interessante, che fa sviluppare, direi, anche in maniera fresca e particolare le tematiche intorno al martial, all'etno tribale, al gothic, all'ambient. Mi auguro che ci sia dunque anche un seguito come Morgue Ensemble. Saluto intanto Gianluca Becuzzi e Maria D'Agostini qui a Roma. Del Becuzzi ricordo una ultima uscita come Kinetics che spero di avere al più presto. Non diversissimo come approccio è il prossimo artista, che proviene dalla Polonia e che si chiama Job Karma. Sono andato a ripescare un vecchio lavoro dell'inizio degli anni 2000, se non sbaglio è proprio il 2001, quindi è un disco che ha ben 20 anni. Si chiama Newson, il secondo, e ci andiamo ad ascoltare November e 1913. La Polonia ci ha sempre donato dei talenti non indifferenti, tra cui questo Job Karma di Maciek Fret, insieme a Aurelius Pisarzewski, in attività dal 98, anche se ultimamente ha segnato un po' il passo questo progetto, che non incide niente di nuovo a livello di album dal 2014. Un qualcosa di sinistro e minaccioso pervade l'intera opera, l'intero Newson. Album anche in parte diversi tra di loro, ci sono anche degli album più elettronici. Il buon Maciek Fret si segnala anche per organizzatore del Wroclaw Festival, forse l'appuntamento più interessante per un certo tipo di sonorità. Si dovrebbe tenere in novembre, quindi dovrebbe ritornare in novembre. Per me, chiaramente, se tutti i problemi che ben sappiamo vanno in regressione. Vado a risalutare Alessandra dunque a Fiamignano. From the moment that 51L mission went to launch pad, there was nothing that a human could do to help. E torniamo in Italia con il progetto Stasis di Francesco Di Stasio. Anche qui ci saranno dei corridoi di scura ambient, dove però si potranno udire degli echi industrial noise che di tanto in tanto sorgono e travolgono il tutto. Questi sono gli elementi di Stasis, terzo lavoro per Francesco, appunto, che esce per la 8 Tower Records, l'etichetta succitata di Raffaele Pezzella. Neil Impulse è il nome del progetto, naturalmente, non so se l'avevo già detto, ovviamente lo ridiciamo, Neil Impulse. E ci ascoltiamo il brano che va a chiudere l'intero lavoro, To All Our Futures, These Ruins Shall Return. finiva veramente alla grande questo Stasis. Per quanto riguarda Nihil Impulse, il terzo lavoro per questo artista italiano Francesco Di Stasio, che ha avuto, diciamo, la benedizione di Raffaele Pezzella attraverso la sua Eight Tower, dove ha ristampato, arricchendolo, un disco che in realtà in parte già era uscito 2 anni fa. Emana veramente un bagliore sinistro con queste schegge di impazzito noise. Questo lavoro dai frangenti multiformi. Una delle migliori uscite, mi spingo a dire, proprio della Eight Tower Records, diciamo entità parallela della più famosa Next Play Sounds label, fondata da Raffaele Pezzella, che vado a risalutare. Anche lui ha stampato un suo nuovo lavoro come Sonologist, che ascolteremo la prossima settimana, lo diciamo così in anteprima, e lo diciamo anche lui se ci sta ascoltando. Dopo parecchi progetti emergenti, torniamo a una vecchia gloria intramontabile, Current 93. Anche per quanto riguarda Current 93, l'ultimo passaggio riguardante Live at Bar Maldoror, un vecchio lavoro del 1985 che inizialmente uscì per una label ultrasotterranea dal nome Mimort, e poi ristampato dalla Dartrock, che fu per molti anni etichetta dello stesso Tibet. Caratteristica fu di questa ristampa l'aggiunta di 2 tracce, in realtà già inserite in From Torture to Conscience, una vecchia compilation che vedeva Death and June, Current, eccetera, eccetera. Quindi ci ascoltiamo Christ on the First Howling e Feels of Rape in un'altra ennesima versione. Ah!